la neurologia, il ruolo del neurologo, l'anamnesi, l'esame neurologico, e diciamo il primo approccio tra il neurologo e il paziente neurologico. Oggi invece facciamo un excursus un po', diciamo, sommario delle grandi sindromi neurologiche, che poi alcune verranno trattate nel dettaglio, quelle che sono di vostro interesse, diciamo, per cui l'anatomia ve la ricordate un po'? Bene, quindi abbiamo l'emisfero che ha delle aree, diciamo, che sono deputate a delle funzioni specifiche, e quindi, come abbiamo detto io l'altra volta, no? Diciamo, il riconoscimento di un sintomo fa pensare a una determinata area del cervello che può essere coinvolta dalla patologia. Per cui ovviamente se avremo disturbi, per esempio come nel caso di una sofferenza vascolare che interessa un emilato, tipo l'emilato di destra, quindi una sofferenza motoria fascio brachio pleurale, però mi raccomando, stiamo in silenzio. Quindi una sofferenza clinica che consiste in un deficit di forza, per esempio dell'arto superiore di destra, dell'arto inferiore di destra, addirittura dell'emivolto, quindi una emisindrome motoria fascio branchioculare, dovremmo pensare all'interessamento di quella che è l'area motoria. L'area motoria, di cui abbiamo già accennato la volta scorsa, che abbiamo detto essere situata davanti alla scissura di Orlando, che diciamo comprende tutta una serie di zone, diciamo, del cervello, di cui la più importante è l'area 4, vedete quella in giallo, che è l'area motoria primaria, M1. Poi abbiamo altre aree che sono coinvolte nel movimento, sono per esempio l'area premotoria, che è situata anteriormente all'area motoria, questa è l'area motoria, M1, e l'area premotoria. Entrambe sono coinvolte nella funzione della motilità. Questa è la scissura di Orlando. E immediatamente dietro alla scissura di Orlando abbiamo un'area che è speculare all'area motoria primaria ed è l'area somatosensoriale primaria. Quindi la scissura di Orlando fa un po', diciamo, da spartiacque tra l'area motoria e l'area somatosensoriale. Qual è la differenza, diciamo, nella dinamica tra l'area motoria e l'area somatosensoriale? Che nell'area motoria che succede? Il comando parte dall'area motoria e poi, dopo tutto il percorso che abbiamo fatto eccetera, arriva al midollo, poi fuoriesce tramite le radici, tronchi, nervi periferi, arriva al muscolo. L'area somatosensoriale invece ha un percorso che è esattamente opposto, quindi abbiamo le cellule somatosensoriali che raccolgono dalla periferia, tant'è vero che, diciamo, le cellule sensitive, vi ricordate come sono fatte, sono cellule a T, che hanno un braccio che va in periferia, il corpo cellulare dove è situato? Nel ganglio. E l'altro braccio che va dentro al midollo, e quindi raccoglie dalla periferia, trasporta al midollo e poi tramite le proiezioni con tutte le varie stazioni che vedremo dopo, arriva in corteccia, dove c'è praticamente il livello di coscienza di quello che è successo in periferia. Per cui abbiamo due viaggi che sono completamente all'opposto, uno che va dalla corteccia in periferia, l'altro che va dalla periferia e proietta in corteccia. Quindi abbiamo detto l'area primaria, l'area primaria motoria, l'area premotoria, l'area somatosensoriale. Poi abbiamo altre aree che sono, diciamo, hanno una importanza analoga, solo che ovviamente la sofferenza delle altre aree non è così disastrosa come può essere una sofferenza in area motoria, no? Quindi l'area motoria, un ictus in area motoria determina una emiparesi, quindi diciamo una disabilità visiva è importante. Un ictus in area frontale, per esempio, può determinare dei disturbi che all'inizio erano anche un po' sconosciuti, perché l'area frontale, diciamo, è un po' la zona del comportamento, grossolanamente, tanto per darvi un po' delle, diciamo, dei punti di refere. Per cui una sofferenza in area motoria, un ictus in area motoria, ovvio non determina degli effetti così conclamati, però può determinare dei disturbi comportamentali che all'inizio possono essere anche... possono essere anche disconosciuti, insomma, come facile irritabilità o addirittura agitazione o ancora nelle fasi un po' più, diciamo, conclamate e nei danni un po' più estesi, c'è il disturbo comportamentale grave con varie manie di persecuzione, eccetera. Poi abbiamo ancora l'area di droga. L'area di droga, a che cosa è deputata? L'area, diciamo, del linguaggio. Quindi una sofferenza di quell'area lì determina un disturbo del linguaggio, che può essere una, diciamo, disturbo di comprensione, di espressione, un'afasia. L'afasia non è mai pura, in genere è sempre un'afasia mista, comprensiva ed espressiva. Poi questo discorso delle afasie lo farete in dettaglio, penso, con Nocentini o con Carlesi, sì, che sono loro che si occupano di questo. Poi abbiamo ancora l'area uditiva primaria, l'area di Wernicke, che è anche lei è interessata in che cosa? La comprensione del linguaggio. La comprensione del linguaggio. Sì. Quindi diciamo, Broca e Wernicke entrambe sono coinvolte nel linguaggio, una più sul versante espressivo, l'altra più sul versante, diciamo, di comprensione. Però ovviamente, diciamo, in genere non è mai così netto il danno, a meno che non ci sia una lesione che è proprio focale, esclusiva di quell'area, e allora, diciamo, si può dire che l'afasia è esclusivamente espressiva oppure, diciamo, di comprensione. E poi abbiamo un'altra area altrettanto importante, che è l'area che zona stiamo lì, cioè, che è l'area dove proiettano dove proietta, diciamo, tutto il discorso della visione, per cui una sofferenza lì porta a un disturbo visivo di natura corticale, non di natura diottrica o di natura prechiasmatica, ma è un discorso, diciamo, proprio corticale, che nei casi più gravi può portare ad una cecità corticale, quindi il paziente dal punto di vista di ottico, dal punto di vista nervotico va bene, però la proiezione arriva in un'area che ha subito un insulto e quindi il paziente non vede. Va bene, dimmi. Una domanda, sempre ragionando se fosse molto semplice. Quando c'è un evento, un insulto, ad esempio vascolare, a livello delle aree del linguaggio, non abbiamo mai una distinzione, poi rapprogare bene, che è sempre una fase mista, però quello che mi chiedo io, visto che è molto vicina anche l'area uditiva, se c'è un insulto là, perché per esempio da noi magari capita, c'è un paziente che ha fasi, così è produzione, comprensione, però dal punto di vista uditivo non capita spesso. Perché dipende dalla rilevazione. Che è differente, certo. È ovvio che l'insulto dipende sempre, cioè l'insulto è l'evento finale, no? Di un vaso che è stato ostruito oppure ha avuto una rottura per un aneurisma o ancora. È vero che l'irrorazione è completamente diversa. Possono originare poi da sottorino, se riusciamo anche oggi abbiamo due grossi diciamo l'irrorazione del cervello è formata da due grossi apporti. Uno tanto le carotidi, quindi l'area motoria e l'area espressiva del linguaggio, e l'altra portata dalle vertebrali, che rodano il cervelletto, rodano la zona occipitale e rodano tutta la zona del. Allora, quindi, ancora per ragionare in maniera così grossolana, per farvi entrare nell'ambito della neurologia che insomma è abbastanza complessa, vi ho detto che per esempio la sindrome frontale è una sindrome che poi diciamo, può anche non essere così presa tanto in considerazione se non facciamo. Mentre per esempio il paziente che arriva con un ictus, con un deficit facio-brachio-pleurale, diciamo vabbè ha avuto un evento ischemico oppure emorragico nell'area motoria, un paziente che arriva casomai agitato, che arriva con dei disturbi comportamentali, casomai non così importanti, se noi non facciamo una risonanza, una TAC, non siamo mica certi che ha avuto un ictus. Quindi diciamo che la sindrome frontale può essere anche un po' misconosciuta. Io racconto sempre il caso di una mia paziente affetta da sclerosi multipla, la quale aveva tutte aree frontali, per cui all'inizio non era stata presa in considerazione la sclerosi multipla, e che diciamo quando ha avuto poi un disturbo visivo è stata fatta una risonanza eccetera, è stato visto che era piena di placche a livello cerebrale, ma soprattutto placche che si estrinsecavano a livello frontale. E poi facendo un po' la storia al ritroso e tutto quanto, parlando con la famiglia eccetera, abbiamo chiesto ma ci sono stati, perché sapete la storia va a sé, poi ne parleremo, sono fasi acute, fasi di revisione eccetera. Quindi ci sembrava così strano che una paziente che fosse così compromessa dal punto di vista cerebrale poi fosse stata fatta una diagnosi così tardiva, dopo 10 anni, insomma, dai primi sintomi, salendo indietro nel tempo eccetera. E allora abbiamo chiesto se effettivamente questa persona aveva avuto dei disturbi comportamentali, si era comportata strano in determinati periodi. E diciamo un comportamento così un po' sopra le righe, un po' disinibito, comunque non conforme alla sua personalità eccetera, e i genitori, la mamma soprattutto, perché quelle mamme sono interdette, ma sì, ci sono stati dei periodi in cui lei proprio cambiava come personalità, diventava una persona così tanto espansiva che faceva regali a tutti, spendeva, spandeva, insomma non capivamo come mai, e poi dopo era disinibita come comportamento, eh? Quindi c'erano tutti i sintomi un po' che si mascherano, no? Uno iniziava a pensare che poi la sclerosi multipla, insomma, da lì a pensare alla sclerosi multipla ci passa un bel po'. Però ovviamente l'anamnesi, vi ripeto, no? L'altra volta ne abbiamo parlato quanto è importante, eccetera, e in effetti lei aveva, purtroppo, quelle erano delle più serie, le fasi acute di malattia, che si estrinsecavano con il disturbo comportamentale, poi passava la fase acuta, lei tornava ad essere quella di prima, con ben rilascio via la famiglia, ma sì, sai, un periodo un po' così, forse la cioè, le cose che si dicono, no? Stressata, forse il male. Invece erano delle vere e proprie fasi acute di malattia, quindi. Vedete come la sindrome frontale può essere completamente disconosciuta, se non poi dopo facendo degli esami accurati, vedendo che a livello delle aree frontali ci sono delle zone di sofferenza, così come io ho visitato abbastanza di recente una signora anziana che dal punto di vista clinico stava bene, non aveva deficit, non c'aveva niente, solo che aveva diciamo, era diventata aggressiva, un comportamento assolutamente non congruo alla sua personalità, questo era un insegnante di vecchio stampo, non già di parolacce, insomma, era una cosa che è un cambiamento troppo, che non era giustificabile con l'età, con si era fatta una risonanza magnetica e si era vista che questa poverina aveva una vastissima area ischemica in area frontale, per cui se avesse avuto lo stesso disturbo in area motoria, tutti quanti ne avrebbero avuto considerazione, e avendola avuto in area frontale sembrava quasi che fosse impazzita sine causa, invece la poverina era un disturbo vascolare. Quindi questo per dirvi come le cose, no? Sono complicate. Scusi, a livello dell'area frontale ha un discorso di, come l'altra volta, comunque di non orientamento nelle persone, ad esempio. Persona che viene orientata e una persona che non riconosce il parente. Sì, diciamo, nel disorientamento visuo-spaziale, anche qui a quel punto dobbiamo parlare di che cosa secondo te? Di un'area frontale sì, ma di quale emisfero? Del destro, una paziente di estrimane. Quindi diciamo, certo, il disorientamento temporo-spaziale nelle persone c'è, una calculia, no? Diciamo, vi ricordate l'altra volta che ho detto facciamo fare i calcoli, 100-7, poi diventa tutto più complicato, cioè non lo riescono a fare più. Certo, può essere una sofferenza in quell'area lì. Ovviamente parliamo sempre di pazienti destrimani, perché poi nel paziente mancino la cosa viene un po' sovvertita, però in grosso modo è così. Ecco, quali sono la sindrome frontale? Comprende una sintomatologia abbastanza varia che ha come diciamo, cosa fondamentale il disturbo psichico, poi comprende altre cose, ma insomma questa è la scienza, quale vedremo dopo, quindi i disturbi psichici, soprattutto il disturbo dell'umore, vedete, sindrome moriatica, eccessivamente euforico, fino ad essere quasi maniacale, disinibito, tendenza alla ilarità, insomma inappropriata. Linguaggio scurrile, vi ho detto di questa signora anziana di 90 anni, insegnante, veniva a dire parolacce, insomma, tutti quanti si scandagliavano come mai, sembra stata una cosa così per bene. Poverina, c'ha un'ischemia in area frontale. Ed era diventata, aveva una sindrome frontale. Oppure può essere il contrario, cioè il paziente diventa apatico, indifferente, depresso, c'è un disturbo dell'iniziativa psicomotoria, ci possono essere disturbi intellettivi, ma attenzione, mi sembra che sia tutto abbastanza comprensibile. Poi c'è un disturbo della mobilità oculare, ma questa è già una cosa un po' più complicata. Poi c'è un disturbo della mobilità riflessa e del tono muscolare, perché c'è un ipertono tipo ipertono plastico, un un aumento del tono muscolare, che comunque è una disinibizione a livello dei tipi centrali, o ancora disturbi del linguaggio, afasia di Broca, perché inserisce le zone del mistero dominante a livello del piede della terza circonvoluzione centrofrontale, la fascia è una fascia non fluente, la costruzione è buona. Invece quello che nello specifico, insomma, perché poi nelle afasie voi non è che intervenite, interviene il logopedista, no? Quello dove voi interverrete sarà nelle sindromi rolandiche. La sindrome rolandica, che diciamo è una sindrome che può essere deficitaria o irritativa. Allora, qual è la differenza tra deficitaria o irritativa? Nella deficitaria che cosa c'è stato? C'è stato un disturbo, un deficit di flusso in quell'area che ha determinato una sofferenza dell'area motoria primaria o anche delle aree premotorie, ma soprattutto dell'area motoria primaria, con sofferenza della via piramidale, che abbiamo detto si chiama così perché contiene le cellule piramidali, anche se sono solo il 4%, il grosso contingente decorre fino diciamo lateralmente, poi a un certo punto si incrocia, decussa il quello delle piramidi bulbari, il tubolo contingente si porta omolateralmente, il grosso contingente è controlaterale e si va a portare poi a livello dello spinale, nelle varie a livello dei vari mielomeri, e va a innervare, diciamo, fa contatto col secondo neurone di moto, poi da lì fuoriesce dal midollo, si porta i tronchi e è giusto. E quindi quello che avremo sarà un deficit motorio, una emiplegia controlaterale alla sede di lesione. Questo si può verificare sia perché c'è un'ischemia sia perché c'è una emorragia. Comunque, diciamo, parliamo di sofferenza nell'area motoria, in genere nell'area motoria primaria, l'M1, abbiamo detto area 4. Però ci può essere anche una sofferenza di natura irritativa dell'area primaria. Irritativa dell'area primaria. Questa sofferenza irritativa è, diciamo, un focolaio epilettico oppure un processo espansivo occupante spazio che determina una irritazione dell'area primaria, tant'è vero che, diciamo, il tumore dà come prima manifestazione di sé quella che si chiama crisi jacksoniana. Che cos'è la crisi jacksoniana? La crisi jacksoniana è una crisi epilettica, diciamo, una crisi epilettica che ha delle caratteristiche. Delle caratteristiche caratterizzate dal fatto che la crisi epilettica, diciamo, a un certo punto parte da un focolaio e poi si estende. Ma questa estensione, nel caso della crisi jacksoniana, è un'estensione progressiva, tant'è vero che si chiama marcia jacksoniana, e procede da un punto fino ad interessare tutto quello che è l'homunculus motorio. L'homunculus motorio di Penfield, ve l'avete fatto in anatomia? Vediamo se qui è subito là. Allora, l'omunculus motorio di Penfield. Bene. l'avete fatto, mi avete detto, quindi che cos'è? Spiegatemelo voi. C'è bisogno che mettiamo la presentazione delle diverse proporzioni con cui l'essere umano percepisce. Quindi, diciamo meglio, è la rappresentazione a livello corticale di quello che è il corpo. Ovviamente avremo un E di un lato, perché l'altro E di lato si trova nel semisfero. Quindi questa rappresentazione, e fin qui va bene. Però questo homunculus di Penfield ha la caratteristica di avere, di essere un homunculus mostruoso, sproporzionato, certo. Perché? Allora, perché sproporzionato? Tutto questo ovviamente ha una logica. La rappresentazione motoria e sensitiva non è omogenea, ma è, diciamo, rappresentata con delle appunto degli apici e dei livelli più bassi. Però perché questo? Perché se no, allora funziona sensibilità maggiore, magari allora diciamo che nell'homunculus, adesso mi dispiace, io non, ma pure ce l'ho da qualche parte, adesso appena ci arriva la diapositiva forse da qualche parte. L'homunculus di Penfield è un homunculus mostruoso. Perché mostruoso? Perché non è la rappresentazione somatotopica esatta di quello che è il nostro corpo, no? Allora, il corpo, una grande estensione, diciamo proprio centimetrica, e invece a livello del corticale c'è una piccola area che controlla il tronco. La mano, piccola estensione, grande rappresentazione corticale. Il labbro, non solo, ma la faccia è divisa in due, perché la fronte c'è una piccolissima rappresentazione, invece gli occhi e le labbra hanno una grandissima rappresentazione, così come la lingua. Invece le gambe e i piedi non solo hanno una piccola rappresentazione, ma sono addirittura infilate nell'area mesiale, cioè all'interno, non sono corticali ma sono interne. Per cui, mentre diciamo tutto è situato a livello della corteccia, in quest'area qua, in realtà diciamo, le gambe e i piedi sono situati internamente. Poi ancora, a livello dell'arto superiore abbiamo detto grande rappresentazione corticale, però la mano, diciamo, a confronto del corpo è veramente una inezia. Ma ancora di più, una parte della mano viene iper rappresentata rispetto a tutto il resto. Il pollice, ma quale parte del pollice? La più distale. Cosa è molto importante? L'eminenza tenar. E perché? Perché fa la posizione. Perché noi siamo gli unici a poter fare così. Questo è l'unica cosa che ci differenzia dalle scimmie. L'unica cosa che ci differenzia dalle scimmie, perché le scimmie non hanno il movimento di opposizione, loro fanno così, ma non fanno così. E adesso siamo qua. E non a caso, diciamo, questo movimento di opposizione, se voi pensate, ci dà la possibilità di fare dei movimenti, diciamo, non infiniti, però sono dei movimenti molto complessi, tant'è vero che noi con le mani riusciamo a comunicare, soprattutto riusciamo a comunicare verbalmente, ma anche ad esprimere dei sentimenti, non solo a scrivere, a mangiare, a fare tutti i movimenti più strani, perché per fortuna abbiamo una cosa che ci differenzia dalle scimmie, ma riusciamo anche a comunicare delle cose astratte, come può essere un sentimento. E questo grazie a che cosa? Grazie alla grande rappresentazione che il tenar, che non solo la mano, non solo il pollice, ma un muscolo in particolare, che è l'eminenza tenar o l'opponente, diciamo, ci permette di fare. Ma questo è permesso perché? Perché c'è una grande rappresentazione corticale che a sua volta è caratterizzata dal fatto che, diciamo, ogni piccolo punto del nostro muscolo è innervato in maniera selettiva. A differenza del tronco, dove una grande estensione è controllata da una piccola area motoria, tronco, gambe e piedi. Quindi io dico sempre, questo se quando avete gli appunti, le cose, insomma, lo troverete in tante, dico sempre che tant'è vero che, diciamo, il fatto che l'uomo da quadrupede si è sollevato, no? Quindi è diventato vivere, ha staccato questa mano da terra, quindi diciamo si è evoluto nella scala filogenetica, non solo, ma addirittura superato tutti con questo momento di opposizione che è il massimo della scala filogenetica, diciamo ha evoluto l'uomo in una sfera superiore, e invece i piedi sono rimasti attaccati al terreno. Per cui, come si dice, chi ragiona coi piedi, o comunque diciamo gli arti inferiori hanno una funzione solo statica, non hanno una funzione, diciamo, di particolare interesse, tant'è vero che la loro rappresentazione è una rappresentazione che addirittura è infilata all'interno dell'area mesiale, non è neanche facilmente avvenibile, e dà una piccola rappresentazione. Tutto questo per dirvi la divisione. Quindi, ora che abbiamo rispolverato l'omunculo di Herpin, cosa succede? Succede che nella fase irritativa una piccola irritazione determina un coinvolgimento, poi mano a mano, diciamo, una diffusione dell'area irritativa. Per cui nella marcia jacksoniana, che è proprio una crisi epilettica, che cosa succede? Che abbiamo, per esempio, che il focolaio è situato a livello dell'arto superiore, man mano si estende, quindi arto superiore, faccia, eccetera, poi interessa il tronco e gli arti inferiori. Quindi è una marcia jacksoniana, cioè parte da un punto e poi piano piano interessa tutto il mondo. E questo non è un evento molto frequente, però io l'ho visto in un soggetto giovane che purtroppo aveva un tumore a livello dell'area motoria che poi, diciamo, si è comportato come un agente irritante dell'area motoria, quando si arrivava il punto di neurone viene determinato la crisi epilettica legata alla massa occupante spazio, e poi questa crisi epilettica ha interessato tutto il mondo, quindi c'è stato questo interessamento prima dalla mano, poi il braccio, poi la faccia, poi tutto quindi è mirato. Ma questa fase irritativa si ha solamente, cioè si ha con i tumori? Tumori oppure un focolaio epilettico che non è, diciamo, un focolaio epilettico punto. Il tumore invece in questo caso si è comportato come agente irritante, quindi come se fosse un focolaio epilettico. Scusi, quindi la differenziazione tra l'irritaria e irritativa che possiamo fare magari idealmente, cioè, se abbiamo un evento ischemico, un evento emorragico, possiamo andare in conto a così per un tumore. Allora guarda, il liquicitario c'è un deficit di forza. L'irritativo è un agente, diciamo, un'eccessiva determinazione di epilettica, no, forza tonico-clonica, in questo caso non lo faccio solo, quindi diciamo, deficitario è deficit di forza per giunta permanente, invece l'irritativo è una crisi epilettica che poi viene conclusa. Come? Non sempre, ci può essere una crisi parziale. Crisi parziale senza perdere. E faccio il paziente che viene accorto lui. Ha detto oddio, la mano si muove, oddio il braccio, la faccia, ha interessato lui. E lui che l'ha comunicata perché era solo. Poi abbiamo la sindrome temporale, che abbiamo sempre per ARE, sindrome temporale con disturbi uditivi, del linguaggio, passivi, infante, vegetativi, dell'equilibrio, ma soprattutto dell'equilibrio. Questo è il risparmio. Ancora la sindrome parietale da lesione unilaterale destra o sinistra, sindrome sensitiva corticale controlaterale, fenomeno dell'estinzione, emianopsia e disattenzione visiva, questo è il fenomeno. Poi abbiamo ancora la sindrome occipitale, vedete lì quella. È una risonanza, vedete quello è una, diciamo, una sofferenza del polo occipitale. E abbiamo, come vi avevo accennato, la cecità corticale. Poi abbiamo altri sintomi, no? Adesso fino adesso abbiamo parlato solo di corteccia in realtà. Motoria, somatosensoriale, brocca, vermide, occipitale, frontale. Però ci sono anche altre aree che possono essere interessate da un insulto in genere vascolare. Per esempio il talamo. E quindi abbiamo quella che è una sindrome talamica, perché ci può essere una sofferenza ischemica anche a livello talamico, non solo a livello corticale. E anche qui abbiamo, la clinica non è così dirimente, no? Come può essere il caso di una sofferenza dell'area motoria e un po' meno dell'area somatosensoriale. Per cui in realtà la sindrome talamica può essere ipotizzata e poi confermata da un esame radiologico, però in realtà poi alla fine non è che uno, diciamo, avendo questo tipo di disturbo, può pensare subito a una sofferenza talamica, per cui è un riscontro radiologico. Perché? Per quali sono i sintomi? Sono disturbi delle sensibilità, ipoestesia, iperfatia, disturbi dello schema corporeo, disturbi motori come una tassia sensitiva, movimenti coreo-atetorsici, addirittura la mano talamica, che è sentita da dolori continui, movimenti coreo-atetorsici, rispetto delle sensibilità, eccetera. Quindi vedete, è una sintomatologia abbastanza aspecifica che può essere messo in relazione, diciamo, al problema teramico solo dopo che si fa un'immagine del fotografico. Io ho avuto un paziente, per esempio, che si era dovuto alzare di notte perché era stato chiamato, la mamma stava male, eccetera, evidentemente ha avuto una crisi ipertensiva con disturbo dell'equilibrio transitorio, grande cefalea, però poi insomma ha fatto le sue cose, ha preso la macchina, è andato, ha fatto, è tornato, cioè facendo un esame radiologico, ma mesi dopo, e si è scoperto che aveva avuto un'ischemia calamica. Quindi capite bene che non sono dei sintomi, no? Che possono far pensare a qualcosa in particolare. Poi abbiamo detto che c'erano vari livelli, vi ricordate il livello superiore, quello corticale, quello del encefalico inferiore, che avevamo detto il tronco, e poi quello periferico. Per quanto riguarda il discorso vascolare in genere, si tratta di problemi di natura vascolare, di voci, raramente di tumori, questi problemi vascolari possono interessare il tronco encefalo. Il quale tronco encefalo è costituito da il tronco encefalo come a livello, diciamo, una sofferenza a livello del mesencefalo, dalla sindrome di Weber. Oppure un'altra sindrome, allora lo dico subito, non è che lo dovete sapere questo, perché ogni tanto mi chiedete, ma noi lo dobbiamo sapere? No, però è solo per fare un quadro un po' più generale. La sindrome di Parino, tutte sindromi mesencefaliche, questa è la sindrome pontina, vulvare, troncoencefalica, questa è un po' più complessa, e poi abbiamo detto che abbiamo un altro livello che è quello cervelletto, quindi tutti gli insulti possono interessare, abbiamo detto, il cervello, quindi corteccia, talamo, il tronco o il cervello. E quindi abbiamo dei sintomi cervellari. Abbiamo anche parlato ieri della funzione del cervelletto, che è quella di coordinazione del movimento. Il cervelletto a sua volta ha anche lui un'evoluzione filogenetica, per cui c'è una porzione che è comune a tutti gli animali, cioè quella di che cosa? Del senso di posizione, dell'equilibrio. Poi piano piano, diciamo, c'è un'evoluzione, tant'è vero che abbiamo addirittura gli emisferi cervellari che sono il massimo della scala filogenetica. Per cui la porzione più antica è il lobo filoculo oculare, l'arcus cerebellum. E una diciamo, sofferenza a quel livello là è una atassia, nistagmo e disturbi dell'equilibrio, quindi diciamo la prima funzione è quella dell'equilibrio, no? Quindi l'uomo e gli animali, l'equilibrio è una cosa più antica, che è appunto controllata dall'arti cerebellum. Poi c'è il fallo cerebellum, che appunto è già una fase più avanzata, che controlla diciamo, la marcia, quindi già l'andatura, tant'è vero che quando c'è una sofferenza abbiamo detto, no, le andature, nelle varie tipi di andature, abbiamo l'andatura a base allargata quando c'è una sofferenza cerebellare, quindi vedete come tutte le cose poi piano piano ritornano. E quindi appunto la zona del paleocerebellum, che è già filogeneticamente più avanzato rispetto all'archicerebellum, quindi archicerebellum equilibrio, statica, paleocerebellum marcia, deambulazione. E poi c'è il neocerebellum, che è la porzione filogeneticamente più recente, che è quella che comprende gli emisferi cerebellari e che comanda per esempio la coordinazione motoria. Abbiamo detto l'altro ieri, eumetria, coordinazione, le prove, ve le ricordate quali erano? Indice, punta dell'indice, punta del naso. Quando c'è una sofferenza del cervelletto, vi ho detto, questo disturbo può manifestarsi con un tremore che si manifesta quando ci si avvicina alla mira, quindi tremore telecinetico, oppure nei casi più avanzati, per esempio pazienti affetti da sclerosi multipla, che hanno delle aree cerebellari molto compromesse, questo movimento, diciamo, è un movimento che assume delle ampie scosse, quindi il paziente tenta di avvicinare il dito al naso, però nell'avvicinarlo fa degli ampi movimenti e non arriva mai alla mira. Questa sarebbe la dietrocinesia? Questa sarebbe, sì, le prove di coordinazione, pollice, indice naso e calcagno ginocchio, oppure movimenti alternati come avvitare e svitare lampadine o ancora battere palmo dorso, quindi movimenti alternati, coordinazione. Non so cos'è la diadococinesia. Sì, questi movimenti alternati, sì. Vedi, tremore cinetico, tremore, movimento. E poi ancora disartria, cioè una disartria proprio, una parola scandita si chiama, quando il paziente, diciamo, proprio ha una parola, noi diciamo parola scandita, che per particolare è proprio del cervello. Adesso ci fermiamo un attimo. Allora, cominciamo ad affrontare le patologie vere e proprie, quindi fino adesso abbiamo parlato in generale, facendo un po' una panoramica delle cose, vedendo un po' dai vari punti di vista, no? dal punto di vista della clinica, con l'esame neurologico, dal punto di vista della topografia, quelle aree che sono interessate nelle varie sindromi. Ora cominciamo a parlare, diciamo, della patologia nello specifico. Quindi siamo messi d'accordo come ogni anno con dell'uomo per procedere di pari passo. Io comincio sempre con l'ictus, perché poi sarà l'argomento che voi tratterete con lei e sarà una delle prime cose, a meno che non l'abbia già fatto, quindi io cerco di anticiparla un po' con la patologia e poi lei entra nel dettaglio della riabilitazione. Allora, ictus oppure stroke, che cos'è? È una... tant'è vero che ictus, diciamo, viene usato, no? Una sintomatologia ictale, anche quando non è ictus, per dire che ha un esordio improvviso, in cui si può dire da questo momento si è verificata questa cosa, da quel momento preciso. Per cui sintomatologia ictale significa una sintomatologia che ha una precisa, un preciso momento di esordio. Proprio perché l'ictus è caratterizzato da un esordio improvviso, con deficit neurologici che possono essere sia focali, molto distrettuali, oppure diffusi come può essere diciamo il sindrome, di durata superiore alle 24 ore, e questo è importante. Perché? Quindi le caratteristiche sono l'esordio improvviso e la durata. Cioè, per parlare di ictus dobbiamo parlare di una sintomatologia che dura più di 24 ore, il cui esito può essere anche un esito grave, letale, e che ha un'origine vascolare. Quindi vedete in tre frasi quante cose ci sono, c'è tutto quello che succede da dire. Le 24 ore si riferiscono. Non ho capito. Le 24 ore si riferiscono all'evento, cioè alla causa o al permanere dei sintomi? Ai sintomi. Quindi ictus, evento acuto, con una sintomatologia che dura più di 24 ore, con diciamo un effetto che può essere anche gravissimo, quindi letale, di origine vascolare. Bene? Distinguiamo due grandi categorie in base alla genesi di questo ictus. Quindi l'ictus ischemico e l'ictus emorragico. Due sono. Ictus ischemico ed emorragico. Ischemico, che poi è la, diciamo, comprende la gran parte di quelli che sono gli ictus, tant'è vero che si parla di un 80% dei casi, cioè nell'80% dei casi di ictus la patogenesi è di natura ischemica, cioè c'è un deficit di flusso che determina una sofferenza del tessuto interessato, perché è irrorato da quella particolare arteria che è, diciamo, non porta più il sangue per vari motivi. Lo vedremo. E solo nel 20% dei casi l'ictus è emorragico, cioè ictus, cioè l'evento acuto con dei sintomi che durano più di 24 ore di origine vascolare, non è ischemico ma è emorragico, cioè non c'è un deficit di apporto ematico, ma c'è uno stravaso ematico, quindi un spargimento di sangue all'interno del tessuto cerebrale, quindi nel 10-15% dei casi emorragia cerebrale, oppure questo spargimento di sangue si può verificare a livello del tessuto subaracnoideo. Ci siamo? Mi sembra complicata la cosa? No. Quindi l'ictus è una cosa, può essere diviso in emorragico e ischemico a seconda della patogenesi. L'ischemico è la stragrande maggioranza dei casi di ictus, l'80%, l'emorragico è dovuto a uno stravaso ematico. Dove si verifica questo stravaso? O all'interno del tessuto cerebrale, quindi intraparenchimale, o a livello della zona subaracnoidea. Tant'è vero che ESA, vedete? ESA significa emorragia subaracnoidea. Va bene? Allora, ora mi rifaccio alla tua domanda. Dici 24 ore dei sintomi? Sì, perché se i sintomi durano meno di 24 ore e regrediscono completamente, non stiamo più nell'ambito dell'ictus, ma stiamo nell'ambito del TIA. TIA, che significa Transient Ischemic Attack, cioè attacco ischemico transitorio. la cui caratteristica è proprio quella che voi non riabiliterete mai un TIA. Perché? Perché i sintomi del TIA spariscono completamente dopo, all'interno delle 24 ore. Quindi il TIA, anche lui è un evento acuto, anche lui determina un deficit di funzione, però questo deficit di funzione non è permanente, è transitorio, e la caratteristica è che non lascia esiti. Quindi dopo il TIA il paziente ritorna ad essere così come era prima. Allora dice, vabbè, allora questo TIA non è importante. No, è importante il TIA, perché il TIA è un campanello di allarme per il paziente, perché la, diciamo, gran parte dei pazienti che hanno avuto un TIA nell'ambito di 2 o 4 anni poi purtroppo si fanno un ictus. Perché? Perché il TIA si, ci fa capire che c'è qualcosa che non va, per cui va indagata la pressione, vanno indagati i fattori di rischio, vanno indagati i vasi per vedere se c'è un'ostruzione delle carotidi. Diciamo, il TIA è una situazione di allarme che deve far fare al medico tutti gli accertamenti per capire dov'è il problema, perché il problema c'è, il problema che è transitorio, si risolve al momento, ma che comunque nel futuro potrà dare invece un evento definitivo. Così non ci torna una cosa. Sì. Fate salve, diciamo, le differenze, però sì, ci sono sintomi che permangono per meno di 24 ore. Siamo 15 ore. E poi regrediscono completamente. Quindi siamo parlando, siamo di fronte a un evento ischemico, diciamo, più transitorio. Ma se il tessuto cerebrale. Non è un evento ischemico, è un evento transitorio. Ischemico transitorio, in cui non c'è stata una sofferenza tale del tessuto cerebrale da determinare una lesione di funzione. Però accade per 15 ore dato dei sintomi che potevano fare. Sì. Però parliamo, non parliamo mica di epilessia, parliamo di un deficit di forza lieve, parliamo di un deficit del linguaggio transitorio, parliamo di vertigine, parliamo di, per esempio, un deficit mnesico, il paziente per 2 o 3 ore non ricorda un determinato periodo della giornata di quel giorno, del giorno precedente, eccetera. Quindi tutto transitorio. Va bene? Allora, tant'è vero, appunto, sulla base della definizione e la definizione indicata dall'Organizzazione Mondiale di Sanità, il TIA è quindi improvvisa comparsa, quindi TIA è come l'ictus improvviso, capito? Cioè un evento acuto, improvvisa comparsa di segni e sintomi riferibili al deficit focale cerebrale non visivo, attribuibile a insufficienza a porto di sangue, della durata inferiore a 24 ore. Non è un TIA, non è un TIA che cosa? La perdita di coscienza, le vertigini, l'amnesia globale transitoria, i drop attack, l'astenia generalizzata, lo stato confusionale, l'incontinenza sfinterica, quando questi sintomi sono presenti solo uno alla volta. Cioè non è che uno ha le vertigini o c'è il TIA, no, ha le vertigini ed è confuso, ha le vertigini e c'è un deficit di forza, non ricorda le cose ed è ha un'incontinenza sfinterica, insomma i sintomi sono più di uno, altrimenti avremmo un mondo pieno di TIA, insomma. Le vertigini, ci sono delle vertigini periferiche, delle vertigini centrali che non sono TIA, quindi bisogna stare un po' attento, ma questo è compito del neurologo quando riesce a capire una cosa del genere. Poi l'epidemiologia. L'epidemiologia rappresenta in Italia la prima causa di disabilità, la seconda causa di violenza, la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori e causa il 10-12% di tutti i decessi in un anno. Come vedete, insomma, l'ictus è una grossa fetta delle patologie neurologiche, ma non solo, è una grossa fetta delle patologie che poi vanno riabilitate, che necessitano di riabilitazione. Perché? Perché causano disabilità, è ovvio. Quindi, allora, quali sono i fattori di rischio? Possiamo distinguere dei fattori di rischio che possono essere modificati dal nostro comportamento e dalle abitudini di vita e dei fattori di rischio che purtroppo non possono essere modificati. Quali sono i fattori di rischio non modificabili? Ovviamente l'età, più aumenta l'età e più aumenta l'incidenza. Addirittura con, dopo i 55 anni l'incidenza raddoppia per ogni decade. Scusate, nel reparto, scusate. Pronto? Sì. Ok, va bene, grazie. No, grazie. Va bene, grazie. Allora, dopo aumenta la tua età, dopo 55 anni raddoppia per ogni decade, quindi vedete, insomma, tenendo conto che l'età media di vita è aumentata tanto, vedete che comunque l'incidenza del virus è molto elevata. Poi un altro fattore non modificabile è il sesso, nel senso che è più frequente negli uomini, però poi con l'età si riduce questa differenza. Abbiamo la familiarità e la razza, anche se poi il ruolo genetico, diciamo, non è proprio chiaramente definito. Questi sono dei fattori che non sono modificabili, quelli sono e quelli restano. Poi ci sono invece dei fattori che possono essere modificati. Quali sono? L'ipertensione arteriosa, le cardiopatie come la fibrillazione, l'endocardite, una stenosi mitralica, un infarto recente, un infarto diciamo abbastanza esteso che quindi determina un deficit della pompa cardiaca, e capite bene se il sangue non viene poi emesso con una certa portata è ovvio che abbiamo un deficit di flusso, diabete mellito, l'iperomocisteinemia, un'ipertrofia del ventricolo sinistro, una stenosi, ecco adesso entriamo un po' più nello specifico, una stenosi della carotide che non ha dato sintomi di sé, per cui vanno fatti i controlli nei soggetti, dopo una certa età vanno fatto un controllo periodico di quelle che sono diciamo le carotidi per vedere se c'è una stenosi, se non c'è, se questa stenosi è significativa dal punto di vista emodinamico, se la placca è ulcerata, se la placca è una placca che è molto adesa alla parete oppure diciamo purtroppo è una placca mista, quindi si possono staccare dei frammenti, andare in circolo, cioè. Il fumo di sigaretta e vedete compare l'attacco ischemico transitorio, no? Quindi il fattore di rischio vi ho detto che il TIA nella grande maggioranza dei casi dopo 3-4 anni il TIA purtroppo diciamo porta un ictus, per cui se noi abbiamo un TIA quello è un fattore di rischio modificabile ben documentato. Perché modificabile il TIA secondo voi? Perché se per esempio abbiamo visto che il paziente ha avuto il TIA, allora sono tutti i controlli, si vede che c'è una placca, a quel punto si fa il TEA, cioè la endoarterectomia della carotide, eccetera. Il fattore di rischio legato alla placca può essere eliminato, quindi il fattore di rischio può essere modificato. Com'è? Che vale comunque la terapia che si è arrivato per gli altri mesi. Il fattore di rischio, certo, però insomma il fattore di rischio più importante è già una stenosi della terza rotta. Si decide il pezzo di carota interessato, si finisce. Allora ci sono due metodiche, uno è lo stent, nel senso che si allarga la carotide, e l'altra l'intervento chirurgico vero e proprio, cioè si opera sulla carotide interessata facendo un clampaggio, cioè una chiusura della carotide, e poi viene fatta l'incisione, aperta la carotide, tolta la placca, richiuso e declappato. Voi pensate, cioè, ma allora come fa, se chiude la carotide come ci arriva il sangue? E tra l'altro ci sono i collaterali. Durante gli interventi sulle carotidi noi come neurologi, neurofisiologi siamo presenti, perché facciamo il monitoraggio, cioè facciamo il monitoraggio elettroencefalografico, perché nel momento in cui c'è il clampaggio della carotide, cioè la chiusura della carotide, noi andiamo a vedere sull'elettroencefalogramma se l'emisfero interessato al clampaggio ha un'attività elettrica che si riduce in ampiezza e in frequenza, e quindi avvisiamo il chirurgo, diciamo guarda che l'emisfero che tu stai a questo momento interessando sta soffrendo, e allora il chirurgo a quel punto decide o meno di mettere uno shunt, cioè di degrappare, mettere un ponte, quindi operare con questo, poi togliere questo shunt. Ma perché non lo fa prima? Già ve l'ho spiegato, perché è rischioso, per cui si preferisce non fare lo shunt. Se però il monitoraggio elettroencefalografico documenta che comunque con la chiusura della carotide il cervello è tutto, allora quel che significa è mettere questo shunt. Sì. È un fattore di rischio, sì, però insomma poi a quel punto, cioè è uno dei tanti fattori di rischio. Perciò sotto controllo si ritiene che quello è un paziente a rischio, e quindi vanno controllati gli altri fattori di rischio. Per ridurre il rischio di ictus dopo TIA si fa un trattamento farmacologico? Sì, certo, si fa per esempio un trattamento antiaggregante con la cardiaspirina. Allora, poi ci sono dei fattori di rischio che sono documentati, però non completamente documentati. Allora, l'ipercolesterolemia, le cardiopatie, l'aterosclerosi, l'uso di contraccettivi orali. Per esempio, questo è un grosso problema nelle donne giovani che fanno uso di contraccettivi orali e che fumano. Quindi il fumo e il contraccettivo orale è un grosso fattore di rischio per l'ictus giovanile, quindi bisogna stare attenti. Le donne che fanno uso di contraccettivi è bene che si studino anche questi moderni, sono abbastanza tutti i contraccettivi orali. Io penso che erano usaggio elevato, lo so, però sì, il fumo comunque di per sé è un fattore di rischio, quindi associato al contraccettivo è un rischio. L'uso di droghe, vi ho spiegato l'altro giorno, no? Di quel ragazzo che aveva fatto l'uso di droghe, aveva avuto l'obesità, le cranie, le infezioni. Allora, vi ricordate che sono i corpi di Wiggins? Sì, vertebrale. Oligono di Wiggins è praticamente il punto d'incontro tra tutti i vasi che irrorano il nostro cervello. Abbiamo già accennato che abbiamo una porzione anteriore e una porzione posteriore. La porzione anteriore è data dalle carotidi, carotide comune, carotide esterna e carotide interna, che poi si divide nella cerebrale media inferiore, e invece la, le vertebrali, le quali si uniscono a livello del basilare. Vediamo se lo immagini. Ah, ecco il punto di perfil che stava qua. Torniamo un attimo, facciamo una piccola parentesi rispetto allo punto di perfil. Allora, vedete bene qua, no? Abbiamo detto l'omunculus mostruoso, vedete il piede, la gamba, il tronco, vedete questa piccola area corticale che poi è quella profonda, quella dell'apice, no? Comprende tutto il corpo poi alla fine, comprende le gambe e il tronco. Poi invece vedete la mano, che grossa rappresentazione corticale ha, ma non solo, questo è il tenar, tutto questo che voi vedete è tutto tenar. E poi abbiamo la faccia, vedete qui la fronte con la rappresentazione, e vedete qui l'area della punta, questo è grande, questo è tutto, diciamo, quindi domanda al tuo rigore di Willis, abbiamo le vertebrali che si uniscono nella basilare, la quale poi termina con le cerebrali posteriori. Quindi abbiamo queste tutte le carotide e queste sono le vertebrali, rami terminali, le comunicanti mettono in comunicazione la posteriore e la posteriore. Allora, questa è una classificazione. Cominciate già a dare segni di impazienza, è presto, eh? Una classificazione su base fisiopatologica dei sottotipi del ictus ischemico. Quindi siamo nell'ambito dell'ictus ischemico, non dell'ictus in generale, perché poi manca ancora l'ictus emorragico, che a sua volta si divide in intraparenchi male e superparenchi. Quindi, ictus ischemico. Allora, perché si determina l'ischemia? Per ischemia si intende un deficit di apporto ematico, un deficit di flusso. Questo deficit di flusso determina appunto un insufficiente apporto che poi va a ledere il tessuto interessato. Questo si può verificare perché c'è una aterosclerosi, cioè una un irrigidimento, quindi una sclerosi da ateromatosa di basi di grosso calibro, tipo le carotidi, oppure un'origine cardioembolica, cioè parte un embolo dal cuore. Quale? Perché c'è un processo infettivo, perché c'è un trombo che poi si stacca, eccetera. Comunque, a partenza dal cuore, quindi o per restringimento dei vasi, oppure perché c'è un embolo che parte a origine quindi cardiaca, o anche occlusione dei piccoli vasi. Quindi piccoli vasi vengono chiusi e c'è un insufficiente apporto ictus da cause diverse o ancora ictus da cause non determinate. Quali possono essere le cause diverse? Il vasospasmo, per esempio, abuso di sostanze stupefacenti, vasospasmo, insufficiente apporto perché c'è lo spasmo basale e l'ictus. Allora, andiamo un po' per ordine. Aterosclerosi, patogenesi aterosclerotica, che è la cosa sì, no, non mi ha detto sta cosa. Vedete qui la carotide, la quale può essere interessata in vari punti. Può essere interessata la carotide esterna, può essere interessata la biforcazione carotidea, può essere interessata la carotide interna, certo la carotide interna deve essere interessata a livello della biforcazione perché non ci si può arrivare chirurgicamente, a meno che non si fa uno stent, che è una cosa un po' più complicata. La carotide esterna è quella più facilmente aggredibile, nel senso si taglia, si apre e via. Quindi vedete qui il restringimento del vaso dovuto, causato, vedete qui c'è un restringimento al livello della biforcazione carotidea per la formazione, quindi diciamo dovuto alla formazione della placca. Abbiamo detto una patogenesi cardioembolica, quindi diciamo un piccolo embolo che poi si va a posizionare in vari punti, per cui abbiamo un restringimento del vaso dovuto all'embolo che si è stancato e che a un certo punto si ferma e quindi determina una occlusione. Quali sono le cause, diciamo, di questo stroke cardioembolico? Quindi cardioembolico, quindi a partenza dal cuore, no? Quali sono? Sono una fibrillazione atriale, sono un infarto miocardico recente, una protesi valvolare, una stenosi mitralica, un trombo nel ventricolo che poi da lì passa in circolo e si va a posizionare a livello cerebrale, un mixoma atriale, sapete che cos'è un mixoma? È una estroflessione a livello dell'atrio, è come una, come un piccolo fibroma, no? Avete visto i fibrometri della cute, no? Quelle escrescenze. Quello si verifica a livello atriale, quindi poi si stacca e va in circolo. Una endocardite infettiva, una cardiopatia dilatativa, un forame ovale pervio, sapete che cos'è il forame ovale? Che non si è chiuso completamente, quindi passa. Una stenosi calcifica dell'aorta, un collasso, una calcificazione dell'aorta metallico. Quindi diciamo lo stroke di natura cardioembolica è perché ci sono vari problemi a livello di cardiaco nel cuore che possono determinare il stato di un trombo, cioè come se di un trombo con distacco nell'embolo, questo embolo va in circolo e poi a un certo punto va ad ostruire un vaso che ovviamente è a un diametro più piccolo dell'embolo, perché lo so, fino a che viaggia nel vaso non dà nessuna ostruzione, però poi quando trova un vaso che è più piccolo del suo diametro lo va a chiudere. Come? Più grande l'embolo, più grande l'embolo, più grande l'embolo, più grande l'embolo, più grande l'embolo. Sì, sì, diciamo, dipende dal diametro, non solo, ma poi, per esempio, si può... C'è una diapositiva precedente. Ecco, vedete qua, va a chiudere questo vaso, no? Per cui c'è una chiusura completa. Può ancora... qui non si vede, ma c'è un impatto silente perché è talmente piccolo che non ha determinato grande problema. O qui che si va a depositare sulla parete, restringe la parete però non la chiude completamente. Diminuisce il flusso. Allora, vediamo un po' la sintomatologia, alleggeriamo un po' la cosa che è abbastanza pesante adesso. Qual è la diagnosi? Cioè, la diagnosi è in base a un sintomo clinico molto chiaro, no? Il paziente che non si sente un braccio, non capisce quello che gli si viene detto, si mette davanti allo specchio e si accorge di avere la bocca deviata, ha difficoltà ad esprimere quello che pensa, ha addirittura una forte cefalea. Questo si verifica soprattutto nelle emorragie, soprattutto nella superacnidea. Il paziente ha un dolore a pugnalata, si dice, ha un dolore fortissimo cerebrale che gli impedisce di stare in piedi, diciamo è molto molto invalidante, o ancora ha un disturbo visivo. Io volevo dire questo. No, non ci credo. Disegni confusi. Disegni confusi. Disegni confusi. Ma queste sono solo alcune delle sintomatologie, no? Ho detto, tante eminenze. No, che dico, no, si dà due facciamo le diagnosi più bravi. Tra un po' quando faremo la sclerosi multipla, la metà di voi verrà da me. Già cominciato l'anno curando Fabio. Ovviamente ognuno ha la chetichella dopo che finirà la lezione. Io non lo so, è normale. Penso di aver visitato più della metà di io non voglio la sclerosi multipla, perché quella che più facilmente si può fa a voi, no? Se senti giovani, i sintomi che vanno in vento, ti dico di più e allora c'è la sclerosi. Non c'entra nulla. C'entra un braccio sporco. Allora, ovviamente diciamo l'esame clinico non ci fa capire se l'ictus è ischemico o emorragico. Lo possiamo supporre, perché abbiamo detto che l'80% degli ictus sono ischemici e il 20% degli ischemici e il 20% emorragico. Però diciamo non lo possiamo dire con esattezza se non facciamo un'immagine. Il primo esame che viene fatto al pronto soccorso è un TAC cerebrale. Perché? Perché è un esame facilmente approcciabile, perché costa poco e perché ci fa subito capire se c'è uno stravaso ematico, perché con la TAC oppure se non c'è niente. Se non c'è niente, il negativo e il paziente presenta dei sintomi, è un ictus. La TAC a sua volta diventa positiva nelle ore successive o perlomeno il giorno successivo. Meglio sarebbe una risonanza magnetica. Noi nelle fasi acute, diciamo quando si pone il problema di fare o meno una trombolisi, viene fatta anche la risonanza magnetica con diffusione, però il punto deve essere, ragazzi voi fate alzare la voce per superare il vostro livello. Questo viene fatto quando la trombolisi si può usare se il paziente ha meno di 83 anni e se i sintomi durano, sono insorti nell'ambito di 2-3 ore, perché altrimenti non si può fare più. Quindi se siamo in questo ambito, paziente giovane con una sintomatologia recente, paziente che va in ospedale per un altro motivo, sta qui vicino, è arrivato subito in ospedale, tutto quanto, noi attiviamo tutta la procedura che non è di TAC, ma di angio TAC, angio risonanza, per vedere, diciamo, se effettivamente c'è qualcosa che chiude un vaso, e se ci sono le indicazioni si fa la trombolisi. La trombolisi, per definizione, è una, diciamo, una, la lisi, la distruzione del trombo, se si è formato. Allora, vedete la differenza tra ictus ischemico e ictus emorragico. Ictus ischemico a sinistra, ictus emorragico a destra. A destra si vede subito la massa occupante spazio, perché? Perché l'emorragia, cioè lo stravaso ematico, il sangue che si ferma lì a livello del parenchima cerebrale, perché ovviamente si è rotto un vaso, altrimenti non ci sarebbe lo stravaso ematico, si comporta come una massa occupante spazio. Invece da quest'altro lato non c'è la massa occupante spazio, però voi vedete che c'è una zona iperintensa che addirittura chiude il ventricolo laterale, lo riuscite a vedere? Ma questo è già una fase avanzata, no? Questo che addirittura chiude il ventricolo laterale, perché l'ictus ischemico a un certo punto determina una certa quota di edema che comprime il tessuto cerebrale e quindi si chiude il ventricolo laterale. Però ripeto, queste sono le fasi più avanzate, non certamente questa è un'immagine di un paziente che ha avuto un ictus recente che è arrivato lì. Allora, per quanto riguarda la stenosi e le carotidi, si fa con l'esame Doppler, il Doppler dei vasi dei tubi sopraottici, questo è un ecocolor Doppler, quindi qui c'è una plastica che ostruisce il vaso. E diciamo la placca viene distinta tra placca emodinamicamente non significativa e placca emodinamicamente significativa, cioè se la placca chiude il vaso di un 20-30-40% si dice che non è significativa dal punto di vista emodinamico, che diciamo l'apporto di sangue è un apporto tale da garantire una sufficiente evacuazione. Quando invece questa placca supera il 70% si comincia a parlare di placca emodinamicamente significativa, in quei casi si interviene, diciamo, in maniera abbastanza rapida. Vedete qui invece con l'angiografia, questo è un esame facilmente approcciabile, invece l'angiografia è un esame completato, vedete qui che c'è una placca, perché c'è un difetto di riempimento del mezzo di comunicazione di contatto del bambino. Questa invece è una risonanza magnetica in cui si vede che c'è un quadro di cerebrale vascolare diffusa, o ancora per esempio questa è una dissezione della carotide per cui l'insufficiente apporto ematico è dovuto alla dissezione della carotide. Quindi nell'ambito di quelle, diciamo, dei fattori di rischio che abbiamo detto essere generano altri, c'è anche questo della distensione della carotide, cioè praticamente si scollano i foglietti che costituiscono la parete della carotide e quindi a quel punto ovviamente il nucleo basale si restringe e questo determina una insufficienza quanto ematico. Poi abbiamo detto che l'altro 20%, il restante 20% è dovuto alle emorragie. Le emorragie che sono, si possono verificare all'interno del parenchima oppure solo nel 5% dei casi sono subaracnide. Perché c'è un'emorragia? Le cause possono essere tante. Fattori anatomici. Fattori anatomici sono per esempio delle alterazioni delle pareti basali che a un certo punto, per esempio in seguito a un picco ipertensivo, si rompono e quindi il sangue fuoriesce all'esterno del vaso, quindi c'è uno stravaso ematico. O ancora le malformazioni arterovenose, MAV. Malformazioni arterovenose che sono la causa più frequente di emorragie intraparenchimali nei soggetti giovani. Per esempio angiomi. Non tanto gli angiomi, le malformazioni arterovenose. L'angioma è diciamo non sempre una cosa del genere, comunque anche l'angioma può essere diciamo. Poi le arteriti, le fistole, insomma tutto quello che dal punto di vista anatomico può determinare un'alterazione del vaso, per cui questo vaso a un certo punto non regge più e si rompe. Poi abbiamo i fattori emodinamici, di cui la cosa più importante è ovviamente l'ipertensione arteriosa nell'anziano, picco ipertensivo 230 su 120. Beh, il rischio che si rompa qualcosa a livello cerebrale è molto alto. O ancora farmaci emostatici, farmaci antiaggreganti, trattamento trombolitico, leucemia, o ancora altri fattori, tumori, l'alcol, la cocaina, le vasculiti, le anfetamine. Sono diciamo tantissimi fattori che possono determinare un'emorragia parenchimale. Che significa parenchimale? All'interno del tessuto cerebrale. Poi ci sono delle emorragie parenchimali multiple, come può essere per esempio la coagulazione intravascolare disseminata o CID, o ancora la leucemia, o ancora delle metastasi, alterazioni emostatiche, eccetera. Io scrivo così. Abbiamo detto che il restante 5% delle emorragie, cioè il restante 5% dell'ictus di natura emorragica è dato dalle emorragie non parenchimali ma subaracnoidee. Quali sono le cause? Le cause possono essere le aneurismi, una emorragia perimesencefalica, una dissezione arteriosa oppure un'emorragia spontanea. Ci sono delle condizioni ereditarie congenite associate alla aneurisma. Vabbè, questo è inutile che ve lo spiego. Questo è uno studio, diciamo, che tiene conto della rottura di un aneurisma, come può essere una comunicazione anteriore, una carotide interna, una cerebrale media o una quanti posso mettere ancora le cause? Vabbè, per esempio questa vocalina che sta sempre in mezzo, vi mettete un po' paura, almeno anticoagulanti, traumi del capo, e altre cose che non vi dicevo della cefalea, chiamata anche cefalea sentinella nel caso dell'emorragia subaracnoidea, perché? Perché c'è questo dolore che è molto caratteristico, insomma, che almeno si trova sui libri, poi la realtà è molto diversa, nel senso che non sempre c'è questa cefalea a colpo di pugnale, questa cefalea, diciamo, sentinella, che può far pensare a un'emorragia subaracnoidea. Io stesso ho visto una paziente che aveva semplicemente mal di testa, che era andata in un ospedale periferico, era stata rimandata a casa perché, insomma, era stata presa come emicranica, poi è venuta qua, abbiamo fatto una TAC negativa, seconda TAC negativa, o almeno apparentemente tale. Quando l'attacco è negativa e quando si sospetta una emorragia subaracnoidea, una puntura lombare per vedere se c'è sangue, c'è la striata, diciamo, c'è una striatura ematica, si fa la risonanza, si fa l'attacco, cioè in realtà c'era un'emorragia subaracnoidea. Quindi questa cefalea sua, che non era pugnalata, non era assolutamente appugnalata, non era assolutamente sentinella, era colpa dell'emorragia subaracnoidea. Per cui, diciamo, è vero, sì, questi sintomi, ma solo quando in realtà è conclamato, importante, eccetera, ma spesso non è così, purtroppo, per cui il medico può essere tratto in inganno e quindi scambiare una cefalea da emorragia subaracnoidea per una banale cefalea, rimandarla a casa, ma con gravi conseguenze, perché in realtà già era stata rimandata a casa una volta, ma proprio perché la sintomatologia era molto sfumata e il danno era molto lieve, poi questo non aveva dato delle conseguenze, diciamo, gravi per la nostra. Io penso che mi devo fermare, io non c'ho più un'ora e quaranta di lezione. Intanto questo è un momento che dobbiamo necessariamente riprendere, adesso l'abbiamo introdotto e poi lo la volta prossima sarà lunedì prossimo, a